Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È in libreria l'ultima fatica dello scrittore e giornalista spagnolo Arturo Pérez Reverte. Si intitola Il giocatore occulto ed è pubblicato in Italia da Tropea con la traduzione di Roberta Bovaia. In Spagna il romanzo ha venduto 400.000 copie nel giro di 2 mesi, ma anche in Italia Pérez Reverte è molto conosciuto. I suoi romanzi si dividono sostanzialmente in 2 categorie, quelli che hanno per protagonista il capitano alla triste e tutti gli altri, come per esempio L'Ussaro, Il maestro di scherma, Il pittore di battaglie. Si tratta sempre di romanzi storici, dove l'avventura si mescola ad altri generi, come succede anche in quest'ultimo libro. Ecco come ce ne parla lo stesso Pérez Reverte. Parte dell'idea di plantare due eroi molto moderni, molto di oggi. Parte dall'idea di mettere in scena 2 eroi molto moderni, molto attuali. Uno è un poliziotto corrotto, violento, un torturatore che non conosce la differenza fra il bene e il male. E questo è un tema molto attuale perché l'eroe innocente e puro non esiste più in letteratura da molto tempo. L'altra idea era che la mujer es el único héroe moderno interesante. L'altra idea era che la donna è l'unico eroe moderno interessante. Sull'uomo è stato scritto tutto da Omero ad oggi. Tutti hanno scritto sull'uomo. La donna è un eroe moderno. Nella sua forma attuale compare solamente 50 anni fa. La donna oggi si deve confrontare con dei conflitti, con delle lotte, con delle crudeltà, con delle lucidità, con problemi e speranze che non aveva mai conosciuto prima. Sono convinto che sia l'unico eroe veramente interessante che un romanziere possa cercare di raccontare oggi. È l'unico eroe di verità nuovo e interessante che un novelista può oggi in dia contare. Il personaggio femminile, infatti, è una donna molto moderna, cioè una donna indipendente, autonoma. Era un po' strano per quei tempi? No, precisamente non era strano. No, non era strano. Ho scelto Cadice proprio perché a Cadice, nel 1812, c'era una borghesia di cui questa donna era un prodotto tipico. Non è che Lolita Palma, il personaggio femminino, sia una femminista avant la lettre. Non è che Lolita Palma, la protagonista, sia una femminista ante litteram. È che in quell'epoca a Cadice c'era una borghesia colta dove le donne erano così. Tutto quello è stato poi spazzato via dalla guerra e dalla politica. C'è stato un momento in cui quella Spagna è stata possibile. Le donne studiavano le lingue. Se il marito moriva o doveva viaggiare, si facevano carico del lavoro. Era una classe preparata per il futuro. Era una Spagna che sarebbe potuta essere, ma non è stata. Era la Spagna che debió ser, che pudo ser e che por desgracia nunca fue. E per questo che ha scelto Cadice per ambientare il suo romanzo? Proprio perché era una città piena di fermento culturale, sociale, politico? Es que no parecía española, parecía Liverpool o Manchester o Baltimore. No parecía, era non sembrava una città spagnola, sembrava Liverpool, Manchester o Baltimore. Era così poco spagnola che mi sembrava affascinante raccontare com'era, portare il lettore nelle sue strade, nei suoi caffè, nell'ambiente di questa città unica e irripetibile. L'ambiente di questa città unica e irripetibile. Cadice la vediamo in questo momento assediata, quindi in un momento di guerra. La sua esperienza di reporter di guerra l'ha aiutata nel descrivere la situazione di una città assediata? Sì, hay novelistas que escriben con su imaginación y otros que escriben con sus recuerdos. Yo escribo con mis recuerdos. Ci sono scrittori che scrivono con la propria immaginazione e scrittori che scrivono con i propri ricordi. Io scrivo con i miei ricordi, che naturalmente sono mediati dalla letteratura. Le città assediate in guerra come Beirut, Sarajevo, mi sono reso conto che sono un falso rifugio. La città è un luogo dove la guerra, le bombe e le tensioni possono trasformare quello che sembra un rifugio in una trappola mortale. Io volevo tracciare un altro mappa del Cadiz occulto. Io volevo disegnare una mappa della Cadice nascosta, della Cadice occulta. Volevo sovrapporre a questa Cadice educata, borghese, quest'altra Cadice dell'orrore, della tragedia e della disperazione. Volevo giocare a scacchi con i personaggi. Volevo ricordare che il mondo e la vita non sono altro che una partita nelle mani di un giocatore crudele, che non ha sentimenti. Chiamalo Dio, chiamalo il caso. Chiamalo come vuoi. Chiamalo Dio, chiamalo azar, chiamalo come quieres. Questo, oltre ad essere un romanzo di avventura, è anche un romanzo poliziesco, nel senso che c'è proprio un'indagine, quindi è un po' un mix fra i due generi. Non entre dos, sino entre muchos géneros. Es una novela de aventuras, es una novela policiaca, es una novela de espionaje. Non è fatto di due generi, ma di molti. È un romanzo d'avventura, è un poliziesco, un romanzo di spionaggio, è un racconto d'amore, un po' feuilleton, un po' sentimentale, è un romanzo di marinai, è un romanzo borghese sociale, un po' di tutto questo insieme. Volevo vedere se riuscivo a mettere insieme tutti questi generi. Io sono un veterano come scrittore, scrivo da più di 25 anni. Dunque la grande sfida per me era vedere se riuscivo a mettere insieme tutti i generi che avevo trattato nei miei romanzi precedenti. Questo ha richiesto una struttura complessa. Sono stati 2 anni di lavoro. Si è trattato di scrivere più romanzi per vedere se poi alla fine si riusciva a metterli tutti insieme. Volevo che il lettore seguisse tutti i personaggi separatamente, per vedere come poco a poco confluiscono nella trama finale del romanzo. Si van acercando unos a otros hasta que todos confluyen al final en el nudo en la trama final. A proposito di lavoro, quanto tempo dedica alla documentazione per appunto l'ambientazione storica dei suoi romanzi? Dedico mucho tiempo, pero es que el placer principal es ese. Dedico molto tempo, perché è il piacere principale. Un romanzo è per me un processo di apprendimento. Io imparo a conoscere meglio il mondo e anche gli argomenti di cui tratto proprio quando scrivo un romanzo. Viaggio, leggo, faccio interviste, parlo con gli esperti, accresco la mia personale biblioteca, per cui tutto questo è un grandissimo piacere che spero poi si trasmetta al lettore. Sono molto minuzioso quando creo la scenografia, perché credo che il lettore debba vedere quello che vedo io. Non si tratta di fare la somma delle descrizioni, piuttosto di scegliere quei particolari che fanno in modo che il lettore senta anche gli odori e veda quello che vedo io. E questo richiede un lavoro preventivo molto intenso e poi una selezione molto minuziosa e dettagliata del materiale finale che si mette nel romanzo. Molto minuziosa e molto fina del materiale finale che uno va a mettere nella novella. Lei ha sempre detto che fin da piccolo ha avuto a disposizione una vasta biblioteca alla quale attingere. Che rapporto ha con i libri? Pues ahora tengo en mi casa 30.000 libros. Significa que tengo una relación muy estrecha. A casa ho 30.000 libri. Vuol dire che ho un rapporto molto stretto. Ma è una biblioteca viva, non una biblioteca museo di libri polverosi. È una biblioteca che consulto costantemente. È uno strumento di lavoro, ma è anche un modo di vivere. Io credo che una biblioteca sia un modo di vivere. Così come un essere umano si conosce dai suoi amici, credo che un uomo si conosca attraverso la biblioteca che ha. Igual che un essere umano se le conosce por sus amigos, credo che un essere umano también se le conosce por la biblioteca che tiene. E lei cosa legge? È distinto. Ora già tengo 59 anni. Già mi tempo sta limitato. Ormai ho 59 anni e il mio tempo è limitato. Non voglio più conoscere nessuno che non conosca già. Ormai rileggo più che leggere. Rileggo soprattutto letteratura greca e latina, alcuni classici spagnoli del 500 e del 600 e alcuni grandi romanzi dell'Ottocento. Dostoevsky, Stendhal, Conrad. Anche Lampedusa, che rileggo molto spesso. E i vantaggi di rileggere qualcosa a 59 anni è che il libro che avevamo letto quando ne avevamo 20 ormai è diventato un libro diverso. Da tempo ho scoperto questa avventura appassionante che è quella di rileggere i libri letti tanto tempo fa. E preferisco rileggere questi libri piuttosto che leggere un qualsiasi romanzo appena uscito in Francia, in Italia o in Spagna. Ci sono ovviamente delle eccezioni, ma sono molto poche. Hay excepciones, por supuesto, pero muy pocas. E questo era Arturo Perez Reverte, ora in libreria con Il giocatore occulto. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it, anche in versione podcast. Un saluto da Alessandra Tedesco.